Rubrica. Benvenuti, eccoci qua. Allora, oggi, che credo sia la nona puntata del Salotto della Tinca, ho pensato di portarvi proprio all'interno di un set Rosario Gagliardo a stare un pochino con noi in alcune di quelle fasi necessarie alla realizzazione di un set porno, ma che non sempre si vedono poi nel film. Quindi vi porterò con me nel momento del contratto, nel momento in cui si firma la liberatoria, nel momento in cui ci si augura buona fortuna prima di iniziare la scena e nel momento in cui dopo, a cose fatte, si commenta un po' com'è andata, ci si chiede come stai, come è stato, cosa cambieresti, cosa ti è piaciuto, insomma, come a volte magari dopo anche solo una semplice scopata casalinga, però un po' di più. Infatti eravamo giusto appunto anche già in tre a parlarne, perché ci sono molte altre esigenze di scena, per esempio. Allora, quindi come funziona? A un certo punto una persona ci scrive, direte voi addirittura, dico io, è certo. In realtà ci scrivono decine e decine di persone a settimana, ma la maggioranza dei contatti, io parlo di quei contatti che sono strutturati attorno alla domanda: posso fare un film con te? Mi piaci tanto, vorrei fare un film con te. Quasi sempre questi messaggi sono diciamo una scusa, un escamotage per innescare o cercare di innescare una sessione di sexting. Quindi non è che arrivano dicendoti ciao, vorrei fare un film con te, ti va di fare sexting? No, dicono ciao, vorrei fare un film con te, ma dimmi intanto se il mio cazzo è adatto alla scena, e parte il tentativo di sexting, chiaramente con spesso e volentieri anche pick dick, quelle robe là, insomma, classiche, che infatti sono il piacere stesso, cioè la finalità stessa è questa: arraparsi nella contrattazione, nel fantasticare cosa ci saremmo mai fatti noi a letto se ci una volta visti, poi noi ci vediamo, certo lo organizziamo, sì, quando, stasera no, io stasera non, chiaramente non posso, no, settimana prossima sì, però ho avuto un altro impegno, e poi alla fine in realtà non c'era la volontà, cioè non è proprio finalizzato in quella maniera lì, cioè era una chiacchierata sexy, solo che io non amo il sexting. Quindi com'è che funziona? Funziona così. Allora, il soggetto X, l'aspirante attore porno, ci scrive, in qualche maniera viene individuato e riconosciuto in quanto reale aspirante e non scroccatore di sexting. A quel punto la cosa diventa un po' più fitta, quindi non si parla più in generale, ma si incomincia a concordare effettivamente l'incontro. Allora, le cose, al di là delle cose che noi cerchiamo di utilizzare per dedurre dall'altro la finalità reale delle sue intenzioni, che sono molto intuitive e non sempre, cioè non ve le posso spacciare come certe, infatti spesso si canna, io mi sono fatta certe chattate, una volta mi sono pure arrapata tantissimo, perché con tutta sta trattativa del vedersi veramente ha funzionato, mi sono divertita molto, però mi sono anche arrabbiata poi perché, come immaginavo a tratti, poi si è verificato che era solo per divertirsi e io infatti mi sono divertita. Però mi sono divertita forse perché io ho creduto e mi sono sentita raggirata e nella mia come dire, perversione, se così la vogliamo chiamare, l'ho trovato estremamente eccitante. Però è una di quelle cose eccitanti one shot, no? Lo fai una volta e poi la seconda non ti ricapita, perché non è che la seconda volta faccio la stessa trattativa con lo stesso tipo e sono lì convinta e poi mi delude. Oh no, era un pacco. Due volte su due, difficile, almeno non con la stessa persona. Bene. Quindi, cosa io inizio a chiedere? Chiedo prima di tutto, cerco di capire, appunto, la prima scrematura è: ti stai facendo le seghe o stiamo veramente organizzando? Punto uno. Punto due, io guardo subito le foto, perché è comunque un contatto fisico con l'altro, l'altro in qualche modo va percepito anche nella sua fisicità. A me piacerebbe molto sentire la pelle, l'olfatto e la voce per scegliere e sentire se sono a mio agio, però ovviamente non sempre si riesce, un po' come dire, subito a colmare queste lacune. Nel caso del ragazzo che abbiamo incontrato ieri, invece, è stato tutto molto più semplice perché io l'avevo già, diciamo, selezionato a una serata buca, quella di gennaio, quella di cui ho già parlato tante volte a voi miei uditori. E nell'ultima serata buca di gennaio lui è entrato, abbiamo avuto un trascorso sessuale e mi è piaciuto, e devo dire che a seguito poi del set che abbiamo girato confermo che mi piaceva, e meno male che me ne sono appunto accorta subito al volo, ho capito che mi piaceva e che avrei, dato che molti mi sono piaciuti in queste serate buca, e poi non ho avuto la prontezza di tirare fuori un biglietto da visita con su scritto "voglio scoparti, chiedimi come", che un giorno li farò, anzi li devo fare al più presto, e quindi avendone persi tanti, perché poi non è che ce ne sono così tanti di amanti in giro potenziali, quindi vanno a chiappare. Allora, quest'altro mi ricordo, io ho detto: cercami Rosario Gagliardo, cerca, trova, dobbiamo assolutamente ripetere. E lui, finita la quarantena, l'ha fatto. E effettivamente il mio assaggiarlo lì di sfuggita probabilmente, però era stato, come dire, un ottimo modo per assaggiare il partner, che infatti quando ho continuato a assaggiarlo qua, devo dire che è stato una giusta saggezza, ecco, la saggezza del cazzo. E va bene, non voglio degenerare. Ah, cosa ho detto? Che chi? Allora, foto. Vabbè, nel suo caso io ho visto la foto che lui ha mandato, l'ho riconosciuto e mi sono ricordata. Lui ha detto che io ho detto che mi piaceva. È vero, me lo sono ricordato quando l'ho letto. Non mi ricordavo i dettagli, ma mi ricordavo questa sensazione in relazione a questa immagine di piacere. Cioè, mi ricordo che gli ho detto sì, mi piaci, torna. E così è stato. Però noi stiamo sempre facendo l'evento, cioè diciamo la parte didattica. Cosa si chiede? Allora, le foto per vedere se c'è empatia, se ti piace, se in quegli occhi lì ti ci vedi, se quel cazzo lì c'è voglia di assaggiarlo, il colore della pelle che ti dice, l'odore è difficile da mandare, pazienza, la voce fatevi fare un audio, io a volte mi faccio fare anche l'audio, perché fa tanto la voce, se non vi piace, almeno a me se non mi piace la voce è come se non mi piace l'odore, cioè... Poi vabbè, me la posso sempre buttare a sadomaso, cioè nel senso, il sacrificio è una delle cose che adoro erotizzare, però se mi sto scegliendo un partner, meglio, cioè perché a volte me li scelgo veramente tremendi, ammetto. Vabbè, comunque stiamo sul fusto. Quindi abbiamo il fusto, bello carino, affabile, sento che mi troverò a mio agio con lui, ho voglia di toccarlo, sì, ho voglia di annusarlo, sì, e incomincio a chiedere, tu cosa ti aspetti dal nostro incontro? Perché? Non perché voglio fargli fare una sessione di sexting e poi dirgli ah no, volevi solo fare sexy, no, ma perché è importante per me a quel punto, visto che ci stiamo veramente per incontrare, stiamo veramente per avere un incontro sessuale, per me è importante sapere dall'altra parte che aspettativa c'è, quindi di vedere se il suo desiderio in qualche maniera sta incontrando il mio. Quindi se lui già incomincia a dirmi vorrei contemplarti per 3 ore mentre ti limi le unghie, ecco, può darsi che mi piaccia in quel momento, di solito non è quello che cerco, però ragazzi i gusti cambiano, ogni giornata è una sorpresa, lasciamo che la vita ci sorprenda, però di solito ecco io so già cosa in questo periodo cerco, però non glielo dico perché sennò lui mi dice sì, no, ma io a me perché a me piace proprio essere oggetto del desiderio dell'altro, quindi l'idea che lui venga da me a soddisfare me non è quello che io sto cercando sessualmente, cioè io voglio che lui venga a soddisfare se attraverso me. Wow, bellissimo. In questa fase della mia vita, in questa fase della mia ricerca, io cerco questo, ok? Quindi l'idea che lui mi dicesse sì, io ti desidero, voglio venire lì, faccio quello che vuoi, io mi fermo un attimo, no dai, sentiamo quello che vuoi tu, poi quando mi ha chiesto cosa vuoi tu, io gli ho risposto non ha importanza quello che io desidero perché voglio essere il tuo oggetto. Chiaramente poi vabbè, lasciamo perdere le riflessioni su questa cosa che è, sennò poi mi allungo troppo il brodo come al solito. E che dire, quindi lui mi ha fatto l'elenco delle cose che voleva, che si sposavano bene con le mie. Io ho fatto l'elenco che in questo caso era voglio rinunciare al mio appagamento, al mio desiderio in questa sessione, e quindi io ho risposto così ad effetto. Poi si fa per dire rinunciare, in realtà è solo un far scorrere in altra maniera, quindi andare a seguire l'eccitazione e il piacere in dei percorsi altri, magari secondari, magari più sordidi, no? Che però fanno parte, cioè che scorrono comunque dentro di me anche. E quindi poi un attimino vediamo che cosa mi sono segnata. Vabbè, allora, quindi l'altra cosa che io chiedo sempre, ovviamente, è sai che firmerai una liberatoria, quindi devi portare i tuoi documenti, poi gli accordi sul far vedere o meno il viso, dove, come, perché, e chiaramente le analisi delle malattie infettive, e in questo periodo chiaramente, diciamo, un minimo di sicurezza, più o meno, cioè per quanto è possibile, sul fatto di non avere almeno i sintomi del Covid. Dunque, il discorso sugli accordi preliminari è fondamentale, secondo me, in generale, anche nei rapporti non di set, ma personali. Allora, a me piace tantissimo mettermi nelle mani dell'altro, rinunciando anche alla mia volontà, ma lo faccio con le persone che so che lo posso fare. Ecco, andare con uno sconosciuto a mettersi le mani nello sconosciuto ti può andare bene e ti può andare meno bene, nel senso che può essere anche noioso, cioè noi pensiamo sempre al pericolo che corriamo, ma pensiamo un attimo anche al pericolo che corriamo non inteso come violenza, cioè pensiamo alla noia, all'enorme violenza della noia, cioè avere l'altro che non sa che cazzo fare perché anche lui vuole accontentarmi per cercare di essere gratificato e cercare, come dire, il bravo, mentre magari lo sto cercando anch'io e siamo tutti e due babbi a guardarci in faccia sperando che l'altro ci dia un là, è fine pass. Comunque, allora, C'è sempre un gap tra quello che tu ti fantastichi e quello che poi succede, anche perché quando tu hai l'aspettativa e stai andando a cercare proprio una cosa precisa, succede che tu in realtà sei ancorato al piacere dell'immaginazione, del ricordo, quindi una cosa che è nella testa in qualche maniera, e ci sarà sempre un grande gap con la realtà, prima perché è inedita e andrebbe conosciuta da zero. Quindi non ricercare qualcosa che già so nella realtà, ma vista da zero. E secondo, perché sarà sicuramente meno... Cioè, se io sto ricercando una cosa che già so, probabilmente è una cosa bella carica, che per me ha un bel significatone, ma ha un significato dentro di me per la mia storia personale. E questa cosa qua come la possiamo far paragonare con un primo appuntamento con una persona che non ci conosce, che non conosciamo, e che magari è venuta lì per un set, appunto, e quindi non è che c'è, ma neanche chissà che pathos emotivo. È ovvio che più l'aspettativa è mirata e precisa, più il gap tra la realtà e l'aspettativa sarà importante. E, è anche vero che non si riesce ad andare a fare una cosa del genere senza avere un po' di aspettativa, anzi probabilmente tanta. Di solito uno ci fantastica anche molto, si fa un sacco di problemi o di desideri, e quindi insomma non è che proprio... Quindi come si può fare per non essere completamente delusi? Se andate lì che volete che l'altro interpreti il vostro personaggio, ragazzi, fatevene una ragione sul fatto che l'altro farà del suo meglio, ma dovete lavorare anche un po' di fantasia. E se invece veramente siete disposti ad accogliere l'altro e conoscerlo, che non è più o meno nobile, ragazzi, cioè dipende veramente da quello che vi serve, ok? Però se no, nel momento in cui siete lì che conoscete e accogliete l'altro così com'è, diciamo che l'effetto delusion è meno pesante. Qualche volta invece si rimane addirittura positivamente stupiti. Benissimo, bravi, bravi. E dipende anche da voi, non solo da chi vi ha stupito, ma dalla vostra capacità di lasciarvi stupire. La cosa che mi lascia sempre molto stupita è il desiderio dell'altro nei miei confronti. Non è che voglio fare discorsi tipo sono brutta, sono vecchia, sono grassa, sono antipatica, ho delle cose che mi fanno sentire molto insicura, per esempio... È difficile, diciamo, veramente sopraffarmi. Io incontro persone, molte persone che desiderano sopraffarmi e poi, vabbè, non ci riescono. E mi sento come quelle vignette dove è raffigurata quella grossa una donna grossissima, enorme, e l'omino piccolino che annaspa tra le chiappe cercando di risalire e raggiungere i suoi genitali. Ma non è una questione di grandezza fisica, chiaramente è una questione di forse proprio agio, esperienza. Ecco, questo un po' mi lascia sempre un po' boh, però credo che abbia a che fare con quella parte di me che sta ancora cercando di elaborare delle memorie di rifiuto, di esclusione, sai, quella voce dentro di te che forse un po' tutti abbiamo, che ti dice che non sei degna, no? E io magari me lo vivo a letto e sono lì che dico ah non sono degna, non sono degna, sì, ah, e poi godo e poi mi passa. E vabbè, questo per dire cazzate, ecco, questa è la puntata flusso di coscienza a cazzo, e poi meno male c'è un'intervistina e basta. Baci, che dire? Ah, se volete cercare, trovate un mio intervento con Bruno all'interno di una, non so, un dibattito organizzato da radicali e c'era scritto tipo associazione Enzo Tortora, radicali e certi diritti, con c'era anche Pia Covere e chi conduceva si chiamava Giulia, adesso ve lo dico, Giulia Crovellini. Se cercate su Facebook le dirette o su Zoom, certi diritti e radicali, e per il resto tanti saluti. Ah no, un'altra cosa, e c'è fuori il film che abbiamo tirato fuori proprio per questa conversazione politica, un film di molti anni fa dove abbiamo cercato di ricostruire qualche frammento del performance L'essere umano perfetto diventa opera d'arte, in concomitanza con cioè insieme a quello che è successo dopo in camerino quando siamo stati interrotti. È un video interessante, racconta di questo evento particolare in cui noi, in una delle nostre prime esperienze in arte istituzionale, siamo stati cacciati perché nella nostra performance, che era proprio incentrata sull'interazione col pubblico, addirittura avveniva l'interazione col pubblico. E voi dovete sapere che anche se è un'ambizione dell'arte l'interazione col pubblico, se c'è di mezzo la sessualità è reato. Sei qui per fare una scena pornografica con me, giusto? Sì. Ok, appena hai firmato la liberatoria e io ti chiedo adesso scusa, come ti chiami perché non me lo ricordo più? Giulio. Ciao Giulio, dai, racconta come siamo finiti in questa strana situazione. Siamo finiti in questa strana situazione dopo un buca di gennaio, credo. Quando era? Gennaio? E, dopo un amplesso a Sex Positive, io ho trovato il tuo profilo Instagram dopo mesi e vi ho contattato. E come mai? Come mai ci hai contattato? Diciamo che ho visto il tuo portfolio e non so perché. Sai quando si accende una lucina dentro che ti dice: no, vai, fallo. Non so veramente il perché mi sono sentito di farlo e ti ho scritto: dai, facciamo una scena. Quindi hai detto: ma guarda quante altre cose non ho ancora provato. Esatto. Cioè, ho detto: io ho preso solo un aperitivo, un piccolo assaggio, ma c'è molto di più da scoprire. Oltretutto stamattina quando ci siamo scritti in realtà è venuto fuori un po' un giallo, mettiamola così. Io mi ero dimenticato un dettaglio oltre al tuo nome. Ti va di raccontare quello che ricordi del nostro incontro a Buca? Il giallo, spoilerò subito il finale, il giallo della sborrata in bocca. No, in realtà è andata che dopo minuti di fila, non so perché, il selezionatore all'ingresso, a quanto pare, sarà che mi sono presentato da solo, sarà per l'estetica un po', non lo so, tranquilla, mi ha fatto passare abbastanza in fretta e sono entrato e ho detto: vediamo com'è questa Sex Positive, che poi all'inizio io non avevo avevo intuito cosa potesse essere, ma non era chiaro se era una darkroom, se era... io appena sono entrato so solo che ho detto: no, io voglio vedere la situazione là e vedere cosa succede dentro. Eri curioso di scoprire che cosa succedeva dentro, ok? Hai constatato bene cosa stava succedendo, sì, dentro, sì. Bravo. Ti va di raccontarlo un po', perché noi con il nostro podcast, con il mio podcast, io ho già fatto anche 2-3 puntate su Buca, quindi sono una collezionista di ricordi E visto che tu ti porti un ricordo che a me manca, cioè il momento in cui mi viene in bocca, che io l'ho dimenticato, ed è una cosa veramente, cioè devo capirla. Però volevo sapere se ci vuoi portare qualche altro tuo ricordo della serata. Allora, io appena sono entrato e questa opinione l'ho condivisa con altri miei amici, che poi ho raggiunto dopo. La prima cosa che ho sentito è l'odore di sesso dentro la serata, cioè l'odore proprio di scopata, e quindi ho detto qua c'è qualcosa che non quadra. E appunto, come ti dicevo, sono salito di sopra e mi è piaciuto tantissimo il fatto che tu per entrare di fatto ti dovevi spogliare, e quindi eravamo tutti allo stesso piano. Poi in realtà, entrando nella prima parte, che era la zona quella un po' più tranquilla, non mi sembrava di vedere gran cose. E lì onestamente ho pensato, vabbè, i soliti milanesi che si vogliono fare quelli open, sex positive. E poi in realtà, girando l'angolo, mi sono ritrovato davanti a una scena molto, come dire, arrapante. E c'eravate tu e un'altra ragazza, mi sembra, in mezzo ad altri tre ragazzi, e io, da buon frequentatore di club, cose varie, non ero un neofita, ho detto vabbè, io mi butto nel mezzo e che dire, ho tirato fuori quello che dovevo tirar fuori. E poi qualcuno ha risposto alla chiamata. Io. Tu. Allora, intanto ricordo ai nostri ascoltatori che bere la sborra non è una pratica sicura in Italia. A Barcellona pare sia ritenuta una pratica con la quale si può convivere nel circuito gay, giusto? Di solito si sopravvive, mi dicono, da Barcellona. In Italia però è annoverata tra le pratiche assolutamente mortali. Perché a Barcellona? E perché forse a Barcellona sono più calienti e quando ti arrapi di più ti ammali di meno? No, ho detto una cazzata. Va bene, ci sono sicuramente delle influenze culturali e politiche all'interno delle normative, non è solo salute, ma voglio dire che io finora ho sempre raccontato a tutti che per ricordarmi il viso, il nome di una persona, può essere sufficiente che lo vedo nudo, e in cuor mio dico no, in realtà devo almeno ciucciargli il cazzo. Io ti ho bevuto anche la sbarra, mannaggia, però il viso mi è molto familiare, ho delle sensazioni super positive, però i ricordi proprio precisi no, su questo, cioè... Beh, era una serata ombrosa, No? Ci si confondeva tra un cazzo con l'altro, uno dice chissà quale sto toccando. Va bene, allora, finita la parte sui ricordi, non so se sta registrando, sì. 6 minuti, va bene. Allora, adesso noi stiamo allestendo il set, e visto che ti sei, come dire, offerto, hai accettato la mia proposta di far parte anche di questa puntata, che non so più se è la nona o la decima, boh, non so, del podcast, del salotto della Tinca, racconto come stiamo procedendo. Allora, siamo in una stanzetta troppo stretta e troppo calda, con un ventilatore a pale che fa un rumore molto carino, ma probabilmente non riuscirete a sentirlo perché la card del mio registratore non sta funzionando e mi sto appoggiando a un cellulare, quindi niente rumorini. E abbiamo un faretto che scalda, abbiamo il nostro operatore regista Bruno che sta sistemando le luci, abbiamo appena firmato la liberatoria e stiamo facendo una chiacchierata su come si svolgeranno, cioè come procede questo set. Nella puntata precedente stavo proprio parlando dei falsi miti della pornografia, cioè nel senso che tu nel film vedi cose, ma se tu vuoi imparare la realtà dal film, devi tener presente che ci sono tante cose non raccontate, come la nostra chiacchierata adesso. Allora, ti va di raccontare cosa ci siamo detti finora come preliminari, i nostri accordi che hanno reso possibile il fatto che ci incontrassimo realmente, perché poi di chiacchierate così penso che tutti ne hanno tante, però da lì a incontrarsi è un altro paio di maniche. Ma che dire, preliminari sono importanti perché secondo me, anzi è la parte da uno che non ha mai fatto scene o cose, però è importante perché capisci fin dove puoi arrivare, cosa piace all'altra persona, cosa che in un contesto reale, nella vita reale, se ci incontrassimo a una serata o in qualsiasi altro contesto, non sarebbe possibile fare. Non c'è, non, queste cose le persone non se le dicono, no, prima di farlo. Si spera che vada bene. Sì, esatto. Però dall'altra parte, appunto, proprio il fatto che tu non sappia l'incognito, ovvero non sai la prima volta che incontri una persona cosa vuole, cosa non vuole, perché non c'è stato questo tipo di confronto, perché le persone non parlano prima di agire, ok? Secondo me potrebbe far uscire una cosa molto bella. E tra noi com'è andata? Ti va di raccontarlo? Se ti va, tanto nessuno sa chi sei. Ah. Allora metto l'indirizzo Facebook. Allora, com'è andata? Che io vi ho scritto su Instagram e poi abbiamo fatto questo piccolo throwback sulla buca e poi ci siamo sentiti io e te e io fondamentalmente ti ho detto che sono un tranquillone nella parte fuori. Mi stavi già deludendo? No. Ecco. Però che in realtà mi piace molto dominare, sottomettere, guidare tutto il gioco a suon di sputi, schiaffi. Che abbiamo rimandato al secondo appuntamento. Abbiamo optato per un'opzione un po' più polite. Sì, come ti dicevo fuori linea, sono una timidona, ecco, mi mantengo verginella ogni appuntamento. Quindi sputi, rimandiamo la prossima volta, tesoro, non so come mi prende. No, però puoi sputarmi sul culo, sulla fica. Allora, sempre un compromesso. Non mi puoi sputare in bocca. Soffro. Va bene, allora questo è l'accordo. In ambito sadomaso esiste proprio il contratto, però comunque per un set e in generale io lo consiglio, spesso può essere utile anche nella vita privata fare un contratto, proprio un accordo, cioè ci si dice cosa non voglio, cosa voglio, e poi più è complessa la sessione che si mette in scena, più ovviamente ci possono essere altre cose, da altre variabili. Quindi tu cosa hai pensato? Io ti dico cosa mi piacerebbe fare, me l'hai detto, io ti ho detto wow, ok, mi piace. Devo dire che avevo appunto questi bei ricordi in relazione, anche se non dettagliati, solo di sensazioni, quindi mi sono sentita che mi andava. E soprattutto non hai fatto solo la solita chiacchierata per arraparti, farti il seghino e ciao, ma ti sei anche presentato all'appuntamento, bravissimo! Incredibile! Tra l'altro con un test incredibile. Ecco, perché tra le altre cose che vanno nel preliminare sono i test delle malattie infettive, di cui io non riesco, non ce l'ho così fresco quanto il tuo, perché il test deve essere fresco, e complimenti che ce l'hai avuto fresco nonostante la quarantena. E vediamo che altro, quindi il test, gli accordi sessuali sulle pratiche, eventuali parole chiave se si fanno giochi di ruolo, le sai le parole chiave eventuali? no? Vabbè, non ti preoccupare, no, non saremo così estremi. Io per esempio ti ho detto niente culo al primo appuntamento, giusto? Sì. Per evitare quelle scene dove uno cerca di infilarsi nel culo e l'altro dice no, non me la sento, ma no, ma dai, ma ti piace che io insista? No, veramente? Vabbè, dai, dubbi e perplessità, così poi passiamo, chiudo. Allora, dubbi e perplessità sono il fattore camera, che comunque secondo me è molto diverso anche da un club, una situazione piuttosto che orgiastica con amici. L'avere, già superare lo scoglio di avere altre persone intorno a te che hanno dei rapporti e scopano, è già uno step, ma avere la camera puntata, diciamo che è l'unica mia perplessità. Ti capisco. E la tua motivazione? La prima volta com'è andata? La mia prima volta con una camera, probabilmente forse avevo masturbarmi, intendi? O con un rapporto con un altro, con una seconda persona? Non lo so, forse era Bruno. No, ma io quando ho messo una seconda persona davanti alla telecamera, in realtà avevo già rodato parecchio con io davanti alla telecamera. Io avevo il televisore da una parte, la telecamera sul cavalletto già pronta dall'altra, e tutte le sere il televisore mostrava a me. Sono molto narcisista, lo ammetto. E questo molto prima di essere maggiorenne. E quindi io chiedo a te invece, qual è la tua motivazione? Cosa stai realmente, cioè, perché cosa spinge un ragazzo di quanti anni hai? 26 a girare il suo primo porno con una MILF? Perché me l'hanno detto tutti, dovresti girare dei porno. Vuoi accontentare i tuoi amici che si faranno le seghini guardandoti scopare una MILF? No, non gli amici, le amiche al massimo. No, però non lo so, quando senti di avere, cioè di essere affine a questo mondo, che comunque è molto bello, spesso viene visto in accezione negativa, mi sembra una cosa normalissima. Anzi, è una fantasia che avevo da un po' e quindi ho detto vabbè, facciamolo. E noi... Tu lo ritieni una cosa normale? No, beh, avviso occultato è sicuramente più normale che avviso riconoscibile, cioè nel senso, avviso occultato, se io non ti avessi incontrato a Buca e non avessi, anche se non il ricordo del dettaglio, ma un vago ricordo di te, cioè mi ricordo qualcosa di positivo, se no io non avrei mai accettato di vederci stasera, perché una persona che non vuole mostrare il viso, io l'accetto solo per due motivi. Motivo numero uno, mi sta retribuendo bene e io ho voglia, magari è un bel cazzo, mi piace comunque e compenso con l'incasso, oppure è una persona che ha un motivo per cui io ho voglia di scoparci, che può essere per esempio quello di avere un ricordo del fatto che ci siamo già incontrati, mi sono trovata bene e quindi ho tanta voglia. No, ma io lo capisco, anche perché va molto contro la tua filosofia, cioè la vostra filosofia, infatti ero un po' dubbioso di questo, però io penso anche che appunto ci siano delle fasi della vita dove perché non devi poter sperimentare gradualmente? Non penso che, cioè, anzi, i ragazzi e le ragazze della mia età, secondo me, dovrebbero farlo e proseguire gradualmente, perché ognuno ha le sue situazioni fondamentalmente. Cioè, per quanto io mi sento libero di parlare di certe cose con le persone a me care, purtroppo ancora c'è un po' uno stigma, no? E le conseguenze ci sono. Guarda, ne parlavo oggi con un mio amico prima di venire qua e alla fine noi che siamo a Milano, noi che siamo in una realtà molto aperta, abbiamo una concezione molto diversa, ma ancora nei paesi un po' più piccoli, cioè se già una ragazza è molto spigliata, se già succede che un video fatto in casa così trapela fuori, a lei viene rovinata la reputazione e deve trasferirsi. Motivo per cui noi che possiamo anche solo un pochino farlo, io mi aspetto un gesto di coraggio, motivo per cui molte volte rinnego salvo indennizzo. Mamma, no, comunque non si insiste per tirare fuori la faccia in queste situazioni, cioè io la sto tirando su un piano semantico, perché secondo me è importante dirlo, è importante che le persone quando possono si devono sbilanciarsi un po', cioè se nessuno, anche io tutto quello che hanno gli altri, una famiglia, una città, sono i figli, cioè, peggio pure ti assicuro che avere genitori, però io credo che sia importante anche chiedere che ci sia uno scambio quando si fanno queste cose. Però non ti preoccupare, perché non ti sto facendo pressing, adoro fare pressing, ma non te lo sto facendo, perché effettivamente, come dici tu, uno deve essere pronto e ognuno ha i suoi tempi. Sì. L'esempio non è una cosa che uno fa col sacrificio, l'esempio è una cosa che uno fa con la gioia, esatto, quando è pronto. Bene, allora, non so, che altro vogliamo dire, qualcos'altro? Dopo, sì, come pre. Ok, ragazzi, allora noi adesso andremo a cimentarci con la telecamera, attenzione. In bocca al lupo. Anzi, no, scusa, volevo dirti in bocca a me. Vai, quando vuoi. Sta registrando? No, premo. Sì. Sì, ciao, secondo round. Non mi ricordo ancora bene il tuo nome. Giulio. Ciao Giulio, che bel cazzo che hai, grazie, mi hai stantuffato come piace a me. Oh. Forte. Com'è stato? Bello, molto bello. Devo dire oltre ogni previsione, no? Beh, scopare. Vabbè, il set. Ma sai che alla fine per me è stata come una scopata normalissima? Cioè, a parte un paio di cambi di scena, ma il resto tranquillo. No? Ma lo devi dire tu che è la tua prima volta. Boh, per me io non l'avvertivo la telecamera. Beh, questo è un complimento per Bruno. Bruno, eri delicato. Eri delicato, sì. Cioè, sapevo che c'era, ma non mi è pesato. Posso farti una domanda intima e tecnica? Prova a essere sincero, tanto nessuno sa chi sei, quindi puoi dire la verità. Quando mi stantuffavi forte, uh-huh, che ce l'ho anche bella larga, quindi non è che è proprio una verginella, no? Uh-huh. Cosa pensavi? Cosa pensavo? Che ti volevo spaccare. Stavi pensando che mi volevi spaccare? Sì. Che sensazione ti dà? Beh, per me è una soddisfazione. Non lo so, mi dà... Non lo so, è una sensazione di appagamento indicibile, perché tu in quel momento stai dominando una persona su tutti i punti di vista, e quindi io la sento come una responsabilità personale, ovvero che se tu sei qua con me, che ti stai facendo scopare, che secondo me è anche il problema dell'uomo medio italiano, cioè io ti devo scopare. Non è che ti devo dare una cosa media, cioè ti devo scopare, ti devo stantuffare, come dici tu. Io ti ringrazio tanto di aver stantuffato forte, perché come hai notato sono un pozzo senza fondo. Sì. L'hai notato? L'ho notato, sei un pozzo senza fondo. Probabilmente se non fosse stato per le telecamere si poteva andare avanti per un bel po'. Va bene, e com'è stato scopare una donna così morbida? Bello. Vabbè, non è la prima volta, però bello. Quindi ti piace? Cioè, sì. non la vuoi strettina la fanciullina? Ma secondo me non c'è un sì o un no, nel senso ogni tipo ha il suo perché. Bravo, bello. Ah, scusate, non la stavo passando, sono troppo maleducata. Che altra domanda possiamo fare per il nostro porno podcast, post set, chiamata Stantuffo come piace a me? Lo so che non è gradita dal movimento di femministe che dicono che la stantuffata non fa sentire niente. Io certifico che ho sentito tantissimo ed è anche il mio stile di chiamata preferita, e mi dispiace se non è politicamente alla moda, però a me proprio mi dà tanta soddisfazione, e quindi ti ringrazio tanto, perché cioè stantuffare vuol dire anche sudare. Hai sudato, vero? Sì, ho sudato moltissimo. E mi hai anche sputato in faccia. No, però aspetta, chiariamo, non è che sono andato oltre i nostri accordi. Nel senso che non mi hai mirato proprio in bocca, ma al bordo della bocca, tra l'occhio e la bocca. Ah, sei stato calcolato. Certo, sì. La perizia balistica. Vedremo la perizia balistica durante il montaggio. Comunque sappi... Vieni qua, falla vicino il microfono. Adesso che hai fatto questa esperienza di recitare in un film, no? Recitare. Va bene, di... Performare. Di performare o comunque di scopare davanti alla telecamera, che è stato più quello che altro. E lo rifaresti? Ti sei trovato come... Lo rifarei, sì. Ma sempre con noi? Sì, certo. Posso contare sul tuo cazzo? Me lo ridai? Te lo regalo, sì. Guarda che ormai è registrato, eh? Va bene, non so di che altro si può dire, basta. Disquisire, non lo so. Argomenti. Quanti minuti sono passati, argomenti? Beh, a me piace il cazzo. A me piace la figa. Ci troviamo d'accordo. Sì. No, devo dire che sì, la prima squirtata. Mi è squirtato in faccia. Così siamo pari. Com'è stato? Inaspettato. Perché non te l'avevo detto che squirtavo, mi sono dimenticata. Però mi è piaciuto molto. Com'è? Cioè, cosa hai pensato quando è? Cosa è successo? Descrivilo un attimo, immaginati di descriverlo a una persona che come te non l'aveva previsto né pensato. Ma allora, io non ho notato tanta... Cioè, è più gratificante della venuta normale, secondo me. Perché vedi qualcosa di fisico che sta accadendo, mentre la venuta, fra virgolette, classica... sì, vabbè, avverti che avviene l'orgasmo, ma non vedi nulla. Mentre invece mi ha fatto strano vedere uscire del liquido anche da parte tua. Che ti è inzaccherato. Sì. Ti sei sentito un po' oltraggiato? Sì, mi sono sentito oltraggiato. E com'è stato improvvisamente essere oltraggiato? Ho capito come si sentono le donne. E come si sentono secondo te? Troie. Sei stato troia anche tu, sì, sì. Bello, bene. Tesoro, caro, vuoi dire anche tu qualcosa? Com'è stato? Come l'hai vista questo set? Com'era? Era bello, è stato bello, siete stati molto performanti, quindi sono stato contento, era un set anche rilassante, spesso mi stanco di più, ma voi siete stati molto bravi oggi, quindi è andata molto bene, bravi, grazie. Cos'è che ti ha fatto stancare meno? Ma non lo so, forse il fatto che l'azione era continuata, quindi non abbiamo girato molto tempo, cioè è stata un'azione continua, quindi io avevo la possibilità di girarmi come volevo e vedevo sempre qualcosa di interessante, quindi ci stava questo. Domandone, però mettiti il microfono vicino alla bocca. Che effetto ti fa vedere tua moglie che ami tanto, con cui sei da 20 anni, con quei figli, famiglia, tutte quelle robe domestiche, farsi scopare brutalmente da un giovanotto di cui ancora non ricordo il nome, quindi fai tu. Allora, direi che vabbè, l'effetto che mi fa è eccitazione, nel senso, a me piace guardare, ho sempre fatto foto, ogni fotografo è un guardone, se non lo ammette è solo un fotografo bugiardo, però i fotografi sono tutti guardoni. E comunque è molto appagante, per me è eccitante. Mi rimanda un'immagine della mia compagna, bella, edificante, che mi piace. Sono quindi, c'è orgoglio per la mia compagna, c'è eccitazione perché guardo, c'è eccitazione perché c'è compartecipazione, perché voi comunque avete goduto e quindi è stato bello, e c'è la soddisfazione, appunto, che il mio feticismo di vederti troia, no? Di vederti scopata forte, che è una cosa che mi eccita, quindi win-win. E quindi quando metterai il tuo cazzo nella mia fica allargata, cosa penserai? Che bello, che bello, qui qualcuno mi ha aperto la strada. Ecco perché sono così larga, e con questo direi che abbiamo finito. Win-win, ecco. Ciao ragazzi, ciao, fammi aggiustare il volume. Ecco, allora, ho sbagliato tutto il volume. Ciao, come state? Allora, io ho fatto una puntata, è la nona puntata, anche questa volta senza di voi, ma volevo salutarvi perché ci sono dei fans che vi seguono nel salotto della Tinca, che mi hanno detto: ma che fine hanno fatto i tuoi ragazzi? Com'è andato l'esame di Ellino? Ellino, dai, raccontaci almeno com'è andata la maturità. È andata molto bene, avevo un sacco di cose fighe di cui parlare e mi hanno ascoltata in maniera molto interessata, e ho preso 65 e mi sento una donna libera, mi sento veramente un'altra persona e non lo so, è stato fighissimo. Poi vabbè, ho avuto la fortuna di avere un corpo docenti molto bravo e è stato strano vederli tutti quanti con la mascherina, tutti quanti a distanza di sicurezza. E poi vabbè, non ci si poteva toccare, non si poteva portare oggettistica varia, si doveva stare distanti, però in qualche modo si riusciva comunque a intuire tutto l'affetto che avevano nei miei confronti, anche se eravamo tutti distanti e tutti molto, anche come dire, disabituati al contatto, studenti, genitori, persone. E boh, è stato bello. Che ruolo ha l'affetto in un esame? Beh, io sono dell'idea che se percepisci l'affetto e la stima di una persona in qualsiasi contesto, puoi dare il meglio di te. Se senti ostilità, invece, chiaramente no. Infatti mi fa strano che molte persone mi raccontino del loro esame come un momento di superamento di difficoltà, di persone che cercavano di mettergli i bastoni tra le ruote, perché non capisco proprio quale sia... come dire, il fine educativo del traumatizzare una persona e trattarla male, perché in qualsiasi circostanza, se la tratti bene, una persona renderà meglio. E quindi diciamo che sentire i professori così interessati a quello che stavano dicendo, sentire che mi facevano complimenti per quello che stavo facendo vedere, per i miei lavori, non so, mi ha dato tutto un altro tipo di energia. Infatti ero super bloccata all'inizio, i propri 20 secondi iniziali, poi ho tirato fuori le mie tavole e la commissaria esterna mi ha fatto dei complimenti e completamente si è dissipata la mia ansia nell'arco di 2 secondi, e tutto il resto l'ho fatto a proprio treno. Infatti, per chiunque si debba maturare in questo periodo, vedetela come una grande performance teatrale, cioè, nel senso, secondo me non vogliono verificare chissà quali conoscenze, secondo me vogliono soltanto vedervi tranquilli. Quindi io mi sono portata della lavanda tipo prima dell'esame, così me la sniffavo tutto il tempo, e devo dire che ha aiutato. Secondo me gli odori sono un ottimo modo per calmarsi, quindi questo è il mio consiglio. La lavanda cosa fa? teoricamente dovrebbe essere una pianta calmante, ma poi non lo so, copriva tutto quell'odore di disinfettante che c'è tantissimo in giro, che a me dà un fastidio infinito. E poi ha un buon profumo, non lo so, mi ha calmata. Ebbene sì, gli odori sono umori e quindi insomma possono suggestionarci, e la prossima volta magari a un esame odore di cazzo o odore di lavanda, dimmi tu. Beh, l'odore di cazzo ce l'avevo già in realtà, nel senso, già addosso, ho sempre un lieve odore di cazzo. Grazie. Vi aspetto giovedì prossimo per la prossima puntata. Tutti i podcast del Salto della Tinca sono reperibili nel forum Social Club Rosario Gagliardo, nel sito www.rosariogallardo.com. Ringraziamo Lady Attila per la canzone Latex e come cazzo si chiama? Cabradash per la sigla. Ah, la sigla di chi è, tesoro? Come si chiama? Cadavrash. Grazie ragazzi, comunque, anche se ancora non ho imparato come avete deciso di farvi chiamare, ogni volta che sento la sigla mi bagno. Ciao ciao. Gusti per tutti i gusti, yes, sono molti gusti, vado bene a tutti, pure a quelli brutti, pure a quelli brutti, sono una vera pussy, sono una vera pussy. Tu sei un vero man, ma non il mio fran, ti manca il toy man, non sono toy ben mulcher. Sono molti gusti, quindi multifunzionale, il tuo cazzo invece è poco solidale. Per una cagna che si vuole soddisfare, questo no, no, no, non lo posso tollerare. Ma a me fai grosso, ma sì, lo succhio, dovrei scopare a terra per te. Adesso senti, ma frate, lingua a terra, la tua pussy best è latex. Mo ti insegno le istruzioni, ti lubrifico emozioni, stringendoti le corde e coglioni, ad ottenerli grossi come due limoni. E se le cose che dici mi danno malumore, userò il mio culo per soffocarti le parole con latex. No, non c'è competizione, sono una cagna che ne sa di sottomissione. Bussi bussi per tutti i gusti, yes, sono molti gusti, vado bene a tutti, pure a quelli brutti, pure a quelli brutti. Sono una vera pussy, sono una vera pussy.